Al momento dell'insediamento, l'esecutivo Draghi si era presentato come il governo della transizione ecologica. Ecco, ora che traballa ed è sul punto di cadere, facciamo un primo bilancio. Che voto date come Fridays for Future al governo Draghi per come ha agito finora dal punto di vista climatico e ambientale? Ma direi che non si aggiudica di certo la sufficienza, questo è poco ma sicuro. Io sarei per dare un 5 meno, un 4 e mezzo. Da un lato abbiamo visto un Draghi che ha speso parole veramente molto belle, molto in favore dei giovani, ha cercato sempre di farsi vedere anche un po', diciamo, dalla parte dei giovani, di presentarsi come una persona che capisce la nostra esigenza di azioni per il clima. E lui stesso ha detto che la riconosce come una delle emergenze più urgenti del momento. Però poi dall'altro lato queste parole bellissime, questi grandi proclami non si sono mai tradotti in azioni concrete per realmente fare qualcosa, diciamo, per sconfiggere questa crisi, soprattutto in questo momento così critico in cui davvero bisogna avviare la transizione ecologica, in cui bisogna fare delle scelte ambiziose, delle scelte senza precedenti. Ecco, queste scelte non sono mai arrivate, anzi, semmai si è vista una linea opposta. Ecco, arriviamo a questa linea opposta. Cosa non vi ha convinto? Quali sono stati i punti critici? Come prima cosa, sicuramente l'abbiamo visto negli ultimi mesi, da quando è iniziata la guerra in Ucraina, l'aggressione da parte della Russia. Ecco, Climate Think Tank aveva pubblicato uno studio in cui faceva vedere cosa ci serve, ovvero installare le rinnovabili per diciamo uscire da questa nostra dipendenza dal gas russo. Eppure noi abbiamo visto solo appunto un primo ministro che è andato in giro insieme a Descalzi di Eni a fare contratti, a stipulare nuovi accordi con governi e diciamo dittatori non tanto meglio rispetto a Putin, e a importare nuovo gas, quindi legarci ulteriormente a nuove importazioni di gas da altri paesi, da altri, diciamo, sì, da altri stati instabili da un punto di vista politico e che non ci possono assicurare un'uscita da questo sistema basato sui combustibili fossili che di fatto non ci sta portando da nessuna parte, che ci sta solo generando ulteriori problemi, che sta esacerbando la crisi climatica in atto e che tra l'altro pesa, come sempre, sui cittadini e sulle persone, sui ceti più poveri, andando a fare solo gli interessi delle aziende fossili come Eni. Quindi sicuramente il fatto di non aver avviato un vero programma di decarbonizzazione energetica, proprio ora che vediamo quanto questo gas ci stia mettendo veramente, ci stia solo causando dei problemi, questo è stato veramente grave. In più, beh, è proprio degli ultimi giorni la notizia, per esempio, sul decreto bollette, dove doveva esserci la tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, eppure proprio all'ultimo questo è scomparso. Quindi anche qua vediamo, ma poi ci sono tanti altri esempi, vediamo quanto questo governo sia stato in realtà di fatto manovrato dalle compagnie fossili. Ma se vogliamo trovare altri esempi, io guarderei anche alla COP 26, che ruolo ha avuto l'Italia alla COP, ma anche qui, se vogliamo, tante belle parole, tanti begli impegni a parole, però poi di fatto che cosa abbiamo ottenuto, che ruolo abbiamo giocato? Beh, sicuramente non il ruolo ambizioso di cui Draghi tanto parlava. Ecco, questo governo se rimane in carica o il prossimo, cosa dovrebbe e potrebbe fare subito riguardo la transizione ecologica? Rinnovabili a bomba perché senza l'installazione di almeno 10-20 gigawatt ogni anno di rinnovabili non potremo mai uscire diciamo, da questa situazione e noi potremo davvero avere una capacità rinnovabile, cioè ottima, tuttavia non ne stiamo approfittando e quindi bisogna assolutamente come prima cosa trovare un piano di installazione di energia rinnovabile, quindi fotovoltaico, solare, eolico, onshore, offshore, insomma tutto quello che si può fare, però chiaramente questo poi non deve andare a gravare sulle tasche dei cittadini. Questo deve, cioè, nel senso, la transizione ecologica non la dobbiamo pagare noi cittadini, la devono pagare le aziende che fino ad oggi hanno inquinato, che fino ad oggi ci hanno portato in questa situazione. Se vogliamo, non bisogna guardare solo all'aspetto energetico, cioè un'altra cosa necessaria è che la transizione ecologica non sia solo transizione energetica, deve diventare una transizione che abbraccia tutti gli ambiti, tutti i campi della vita. Quindi quindi bisogna fermare la devastazione ambientale, bloccare i progetti inutili, i grandi impianti inutili che continuano di tanto in tanto a tornare, diciamo, nell'agenda politica o nel dibattito pubblico. Ecco, assolutamente non ci possiamo più permettere di trattare così gli ecosistemi come se fossero fonte di profitto, ma dobbiamo assolutamente capire che se continueremo a distruggerli come stiamo facendo adesso, non arriviamo da nessuna parte, non ci sarà alcuna transizione ecologica.